Capitolo 105. Edipo. Laio, figlio di Labdaco, sposò Giocasta e governò su Tebe. Da molti anni, crucciato perché non aveva figli, consultò in segreto l'oracolo di Delfi, che gli spiegò come quella apparente disgrazia fosse in realtà una benedizione degli dei. Il figlio di Giocasta avrebbe ucciso il proprio padre. Allora Laio ripudiò Giocasta, ma non le disse perché, e la regina esasperata lo ubriacò e lo attirò di nuovo tra le sue braccia al calar della notte. Quando 9 mesi dopo Giocasta diede alla luce un figlio, Laio lo strappò alla nutrice, gli forò i piedi con un chiodo legandoli assieme e lo abbandonò sul monte Citerone. Il fato aveva tuttavia stabilito che quel fanciullo vivesse sino a tarda età. Un pastore corinzio lo trovò sulle balze del monte, lo chiamò Edipo per via dei piedi deformati dalle ferite e lo portò con sé a Corinto, dove a quel tempo regnava il re Polibo. Secondo un'altra versione, Laio non abbandonò Edipo sul Citerone, ma lo rinchiuse in una cassa che fu gettata in mare da una nave. La cassa galleggiò sulle onde e toccò la riva a Sicione. Peribea, moglie di Polibo, si trovava per caso sulla spiaggia, intenta a sorvegliare le lavandaie della reggia. Essa raccolse Edipo, si celò in un boschetto e finse di essere stata colta dalle doglie del parto. Le lavandaie erano troppo occupate per badare a quel che stava accadendo e Peribea riuscì a convincerle che il bimbo era nato da lei. Disse invece la verità a Polibo che, anch'egli senza prole, fu ben lieto di allevare Edipo come suo figlio. Un giorno Edipo, dileggiato da un giovane corinzio perché non somigliava affatto ai suoi presunti genitori, andò a chiedere all'oracolo di Delfi quale sorte gli serbasse il futuro. «Lontano dal santuario, miserabile!» gridò la pizia con disgusto. «Ucciderai tuo padre e sposerai tua madre!» Poiché Edipo amava Polibo e Peribea e inorridiva all'idea che un disastro li colpisse, subito decise di non tornare a Corinto. Ma nello stretto valico tra Delfi e Daulide si imbatté il Laio, che con voce aspra gli ordinò di scostarsi e di lasciare il passo ai suoi superiori. Laio era su un cocchio ed Edipo a piedi. Edipo rispose che soltanto gli dei e i suoi genitori gli erano superiori. «Tanto peggio per te!» gridò Laio e ordinò all'auriga Polifonte di fare avanzare i cavalli. Una delle ruote ammaccò il piede di Edipo che, acceso dalla collera, uccise Polifonte con la sua lancia. Poi, scagliato a terra Laio, che si era impigliato nelle redini e frustati i cavalli, lo trascinò nella polvere fino alla morte. Al re di Platea toccò di seppellire i due cadaveri. Laio era diretto a Delfi per chiedere all'oracolo come liberare Tebe dalla Sfinge. Quella mostruosa creatura, figlia di Tifone e di Echidna, o altri dicono del cane Ortro e della Chimera, era volata a Tebe dalle più remote parti dell'Etiopia. La si riconosceva facilmente perché aveva testa di donna, corpo di leone, coda di serpente e ali di aquila. Era mandò la Sfinge per punire i tebani, irata contro Laio, che aveva rapito il fanciullo Crisippo di Pisa. Accovacciata sul monte Ficio, nei pressi della città, la Sfinge poneva ora a ogni viaggiatore tebano un indovinello che le avevano insegnato le tre muse. Quale essere con una sola voce ha talvolta due gambe, talvolta tre, talvolta quattro, ed è tanto più debole quante più ne ha? Chi non riusciva a risolvere l'indovinello veniva strangolato e divorato sul posto, e tra quegli sventurati vi fu il nipote di Giocasta, Emone, che la Sfinge rese Aimon, ossia sanguinante. Edipo, avvicinandosi a Tebe fresco dell'assassinio di Laio, azzeccò la risposta. «L'uomo», disse, «perché va a carponi da bambino, cammina saldo sulle due gambe in gioventù e si appoggia a un bastone quando è vecchio». La Sfinge avvilita si gettò giù dal monte Ficio, sfracellandosi nella vallata sottostante, a che i tebani, grati ed esultanti, acclamarono Edipo re ed egli sposò Giocasta, ignaro che fosse sua madre. Una pestilenza si abbatté su Tebe e l'oracolo di Delfi, di nuovo consultato, disse «Scacciate dalla città l'assassino di Laio». Edipo, non sapendo che Laio era l'uomo da lui incontrato sul valico, lanciò la sua maledizione contro l'assassino e lo condannò all'esilio. Il cieco Tiresia, il veggente più famoso in Grecia a quei tempi, chiese udienza a Edipo. Alcuni dicono che Atena, dopo avere accecato Tiresia perché inavvertitamente l'aveva vista fare il bagno, si lasciò commuovere dalle lacrime della madre di lui e, preso il serpente Rittonio dalla sua egida, gli ordinò: «Lava le orecchie di Tiresia con la tua lingua affinché egli possa intendere il linguaggio profetico degli uccelli». Altri dicono che un giorno, sul monte Cillene, Tiresia vide due serpenti nell'atto di accoppiarsi. Quando i serpenti lo attaccarono, egli li colpì con il suo bastone, uccidendo la femmina. Subito fu trasformato in donna e divenne una celebre prostituta. Ma 7 anni dopo gli capitò di assistere alla stessa scena nello stesso luogo e allora riacquistò la sua virilità, uccidendo il serpente maschio. Altri ancora dicono che quando Afrodite e le 3 Cariti, Pasitea, Cale ed Eufrosine, discutevano su chi delle 4 fosse la più bella, Tiresia assegnò il premio a Cale e allora Afrodite lo trasformò in una vecchia, ma Cale lo portò con sé a Creta, dove gli fece dono di una bellissima chioma. Alcuni giorni dopo Era rimproverò a Zeus le sue molte infedeltà. Zeus si difese replicando che, tuttavia, quando egli divideva il suo letto, Era ne traeva il più grande godimento. Le donne naturalmente assaporano nell'atto sessuale un piacere molto maggiore che gli uomini, affermò Zeus con veemenza. Che assurdità! Gridò Era. Accade esattamente il contrario, e tu lo sai. Tiresia, convocato per por fine alla discussione in base alla sua esperienza personale, rispose: «Se in 10 parti dividiamo il piacere d'amore 3 volte 3, vanno alla donna e una sola all'uomo». Era fu così esasperata dal sogghigno di trionfo di Zeus che accecò Tiresia. Ma Zeus lo ricompensò con il dono della chiaroveggenza e una vita che si sarebbe prolungata per 7 generazioni. Tiresia fece il suo ingresso alla corte di Edipo, appoggiandosi al bastone di Corniola, donatogli da Atena, e rivelò a Edipo la volontà degli dei. La pestilenza sarebbe cessata soltanto se uno degli uomini sparti fosse morto per il bene della città. Il padre di Giocasta, Meneceo, uno degli uomini che erano sorti dalla terra quando Cadmo aveva seminato i denti del serpente, subito si gettò giù dalle mura e tutta Tebe elogiò il suo spirito di sacrificio. Tiresia annunciò: «Meneceo ha fatto bene e la pestilenza ora cesserà». Gli dei tuttavia avevano in mente un altro degli uomini sparti, uno della 3ª generazione. Egli uccise suo padre e sposò sua madre. Sappio, Giocasta, che egli è tuo marito, Edipo. Dapprima nessuno volle credere a Tiresia, ma le sue parole ebbero presto conferma da una lettera di Peribea da Corinto. Peribea scrisse che l'improvvisa morte di re Polibo l'autorizzava a rivelare in quali circostanze era stato adottato Edipo, e lo fece con i più minuti particolari. Giocasta allora si impiccò per la vergogna e per il dolore, mentre Edipo si accecò con uno spillo tolto dalle vesti della regina. Secondo alcuni, benché tormentato dalle erinni che lo accusavano di aver provocato la morte di sua madre, Edipo continuò a regnare su Tebe per qualche anno finché cadde gloriosamente in battaglia. Secondo altri, invece, Creonte, fratello di Giocasta, cacciò Edipo da Tebe, ma non prima che egli avesse maledetto Eteocle e Polinice, i quali erano al tempo stesso suoi fratelli e suoi figli, perché con insolenza gli avevano assegnato la porzione peggiore di un animale ucciso in sacrificio, e cioè l'anca anziché la spalla regale. Eteocle e Polinice dunque rimasero a guardare a occhi asciutti quando Edipo lasciò la città che aveva liberato dalla tirannia della Sfinge. Dopo aver vagato per molti anni di paese in paese, guidato dalla fedele figlia Antigone, Edipo giunse fino a Colono, nell'Attica, dove le erinni che colà avevano un bosco sacro lo spinsero alla morte e Teseo seppellì il suo corpo nel recinto delle venerande ad Atene, piangendolo al fianco di Antigone. La storia di Laio, Giocasta ed Edipo fu tratta da una serie iconografica con deliberato travisamento del suo significato. Un mito che avrebbe potuto spiegare il nome di Labdaco, aiuto con le torce, andò perduto, ma probabilmente si riferiva alla processione di torce che salutava l'ingresso del fanciullo divino portato sulle spalle da bovari o pastori nella cerimonia dell'anno nuovo e acclamato come figlio della dea Brimo, furente. Questa Eleusis o Avvento era la parte più importante dei misteri eleusini e forse anche degli istimici e potrebbe spiegare il mito di Edipo alla corte di Corinto. I pastori allevarono o onorarono molti altri leggendari o semileggendari principi fanciulli come Ippotò, Pelia, Anfione, Egisto, Mosè, Romolo e Ciro, che furono tutti abbandonati su un monte o affidati alle onde in un'arca o ambedue le cose. Mosè fu trovato dalla figlia del faraone quando ella scese alle rive del fiume con le sue ancelle. È possibile che Edipo, dai piedi gonfi, fosse in origine Oidipais, figlio del mare rigonfio. Identico significato ha il nome dato all'eroe gallese corrispondente Dylan, e che il particolare dei piedi trafitti appartenga al periodo tardivo e non iniziale della leggenda, come accadde nel mito di Talo. L'assassinio di Laio ricorda la morte rituale del re solare per mano del suo successore, gettato giù dal carro e trascinato dai cavalli. La violenza usata a Crisippo probabilmente si riferisce al sacrificio di un sostituto al termine del primo anno di regno. L'aneddoto della Sfinge è stato evidentemente tratto da un'immagine dell'alata dea Luna di Tebe, il cui corpo composito simboleggiava le due parti dell'anno tebano, il leone la parte crescente, il serpente la parte decrescente. A lei il nuovo re faceva atto di devozione prima di sposare la sua sacerdotessa, la regina. Pare inoltre che l'indovinello che la Sfinge avrebbe appreso dalle muse fosse stato inventato per dar ragione di una scena raffigurante un bambino, un guerriero e un vecchio che adorano la triplice dea, mentre ciascuno rende omaggio a una persona distinta della triade. Ma la Sfinge, vinta da Edipo, si uccise e così fece la sua sacerdotessa Giocasta. Edipo fu forse un conquistatore di Tebe che nel XIII secolo avanti Cristo soppresse l'antico culto minoico della dea e riformò il calendario? Secondo quell'antico culto, il nuovo re, benché straniero, era considerato in teoria figlio del vecchio re che egli uccideva, sposandone poi la vedova, una consuetudine che gli invasori patriarcali interpretarono erroneamente come parricidio e incesto. La teoria freudiana che il complesso di Edipo sia un istinto comune a tutti gli uomini fu suggerita dal fraintendimento di questo aneddoto. Plutarco, pur narrando che l'ippopotamo uccise il genitore e violentò la genitrice, non ne avrebbe mai dedotto che ogni uomo ha il complesso dell'ippopotamo. Benché i patrioti tebani resti ad ammettere che Edipo fosse uno straniero che conquistò la loro città con la forza, preferissero fare di lui il perduto erede al trono, la verità è rivelata dalla morte di Meneceo, un membro della razza pre-ellenica che celebrava la festa peloria in ricordo di Ofione il Demiurgo, dai cui denti i pre-elleni affermavano di essere nati. Egli si sfracellò a morte con la speranza di placare la dea, come Curzio quando una voragine si spalancò nel foro romano e il medesimo sacrificio fu compiuto durante la guerra dei Sette contro Tebe. Tuttavia Meneceo morì invano. In caso contrario, la Sfinge e la sua grande sacerdotessa non sarebbero state costrette a commettere suicidio. La leggenda della morte di Giocasta per impiccagione è probabilmente erronea. Si dice che Elena degli Uliveti, come Erigone e Arianna del culto del vino, morisse allo stesso modo, forse per via delle figurine della dea Luna, che erano appese alle biforcazioni degli alberi nei frutteti per favorirne la fertilità. Figurine simili erano usate a Tebe e quando Giocasta si uccise, senza dubbio si gettò giù da una roccia come la Sfinge. Il ricorrere di Tiresia, epiteto comune agli indovini nella storia leggendaria della Grecia, fece nascere la credenza che Tiresia avesse avuto da Zeus il dono di una vita lunghissima. Nell'India meridionale è considerato ancora oggi di malaugurio vedere serpenti che si accoppiano. Si dice infatti che lo spettatore sarà punito con il mal femminile, come lo chiama Erodoto, cioè con l'omosessualità. Qui il favoleggiatore greco ha spinto il racconto un po' più in là per dileggiare le donne. La corniola, albero divinatorio sacro a Crono, simboleggia il quarto mese, il mese dell'equinozio di primavera. Roma fu fondata in quella stagione, nel punto in cui si conficcò il giavellotto di Romolo, fatto di legno di corniola. Esiodo fece diventare tre le tradizionali due cariti e le chiamò Eufrosine, Aglaia e Talia. Ciò che dice Sosostrato a proposito della gara di bellezza non quadra, perché Pasite a Cale Eufrosine, la dea della gioia che è per tutti bellissima, pare fosse un appellativo proprio di Afrodite. Può darsi che egli abbia ricalcato il racconto del giudizio di Paride. Sulla morte di Edipo esistono due versioni contrastanti. Secondo Omero, egli morì gloriosamente in battaglia. Secondo Apollodoro e Igino, fu esiliato dal fratello di Giocasta, membro della reale stirpe di Cadmo, e vagò come un mendicante cieco nelle città della Grecia, finché giunse a Colono, nell'Attica, dove le furie lo perseguitarono e lo spinsero alla morte. La cecità che Edipo si infligge, roso dai rimorsi, è stata interpretata dagli psicologi come un simbolo di castrazione. Ma benché la cecità di Fenice, tutore di Achille, fosse considerata dai grammatici greci un eufemismo per impotenza, il mito primitivo è sempre molto esplicito e la castrazione di Urano e di Attis fu sempre citata senza rossori nei testi classici. L'accecamento di Edipo, dunque, ha l'aria di una trovata drammatica e non di un mito originale. Le furie erano la personificazione della coscienza, ma coscienza in un senso molto limitato, risvegliata soltanto dall'infrazione di un tabù riferito alla madre. Secondo la versione non omerica, l'oltraggio di Edipo alla dea della città fu punito con l'esilio ed egli poi morì vittima del proprio terrore superstizioso. È probabile che le innovazioni di Edipo fossero respinte da un gruppo di tebani conservatori e il fatto che i suoi figli e i suoi fratelli gli negassero la spalla della vittima sacrificata equivale a un diniego della sua autorità divina. A Gerusalemme la spalla della vittima spettava di diritto ai sacerdoti e Tantalo la offrì alla dea Demetra in un famoso banchetto degli dei. Fra gli Acan la spalla destra va tuttora al capo. Edipo, come Sisifo, cercò forse di sostituire la legge di successione patrilineare alla legge di successione matrilineare e fu bandito dai suoi sudditi? La cosa pare probabile. Tesio di Atene, un altro istmico rivoluzionario in senso patriarcale che distrusse l'antico clan ateniese di Pallante, è associato dai drammaturghi ateniesi con i funerali di Edipo e come Edipo fu esiliato al termine del suo regno. Tiresia assume qui il ruolo drammatico di profeta delle sciagure di Edipo, ma la leggenda pare sia stata capovolta. Può darsi che un tempo suonasse pressappoco così. Edipo di Corinto conquistò Tebe e divenne re sposando Giocasta, sacerdotessa di Era. In seguito annunciò che il potere regale sarebbe stato da allora in poi trasmesso di padre in figlio, seguendo la discendenza maschile, come era l'uso corinzio, invece di rimanere un dono di Era la strangolatrice. Edipo confessò di sentirsi roso dai rimorsi per aver trascinato a morte con il suo cocchio Laio, che era ritenuto suo padre, e per avere sposato Giocasta, che l'aveva fatto re con la cerimonia della rinascita. Ma quando egli cercò di modificare quelle usanze, Giocasta si uccise in segno di protesta e Tebe fu colpita dalla pestilenza. Seguendo il consiglio di un oracolo, i tebani negarono allora a Edipo la sacra spalla della vittima e lo esiliarono. Morì nel vano tentativo di riconquistare il trono con le armi.